Blog, ovvero weblog, tracce nella rete. I blog sono proprio questo, tracce online di un pensiero, di un'idea, di un desiderio personale. Una specie di diario, insomma, senza lucchetti però, perché chiunque può accedervi per leggere e commentarne i contenuti. Ne vengono creati circa 120.000 al giorno. Il primo blog è stato pubblicato il 23 dicembre 1997 da Jörg Barger, un commerciante americano appassionato di caccia, che decise di aprire una propria pagina sul web per condividere con altri proprio la passione per questo hobby. I blog approdano negli anni successivi in Europa e anche nel nostro paese. Uno dei primi blogger italiani è stato Maximiliano Bianchi. È stato un blogger del 2001, semplicemente perché avevo da scrivere delle cose. Da solo mi sono fatto un sito che poi ho scoperto che tecnicamente poteva chiamarsi un blog, perché c'erano già delle piattaforme gratuite che offriva questo tipo di servizi. I blogger in Italia erano veramente pochi. Io mi sono fatto questa piattaforma in HTML semplicissimo e ho cominciato a scrivere. Ho visto che c'erano altre persone che scrivevano e naturalmente non soltanto scrivevano, ma la cosa importante era che leggevano quello che gli altri scrivevano. Ogni tanto si creavano degli incroci da lì, quindi sono 7 anni che scrivo di cose mie piuttosto che di iniziative comuni o personali che porto avanti. Così è nato, 7 anni fa, il blog di Maximiliano Bianchi, Strelnik per il mondo del web. Condividere l'interesse e la passione per la scrittura è ciò che dà vita alle prime comunità di blogger. Nel 2004, Strelnik lancia attraverso il suo blog l'idea di una riscrittura collettiva di Pinocchio, il classico di Collodi. Vedevo che c'erano molte persone che scrivevano e condividevano appunto i loro contenuti in rete. Ho pensato di proporre alla comunità di blogger che conoscevo di riscrivere questa fiaba. Io ho lanciato questo progetto, riscriviamo Pinocchio, senza nessun tipo di limite, di battute, di tema, eccetera. Una rivisitazione personale che ha avuto appunto come prima comunità che l'ha recepito quella dei blogger, che hanno rilanciato a loro volta questa iniziativa nella detta blogosfera. Alla fine ne sono venuti fuori 37 racconti che abbiamo pubblicato, che ho pubblicato su un sito e che poi alla fine sono diventati, grazie anche all'interessamento di un portale che si chiama intoscana.it, un libro distribuito, un libro di carta, quindi distribuito in sotto Creative Commons. Il progetto di riscrittura collettiva di Pinocchio, lanciata dal blog di Strelnik, è ora la sua seconda stesura. Abbiamo deciso di continuare con un volume 2, cercando di, ugualmente come nel volume 1, di far riscrivere ai blogger che ne avessero voglia, o blogger o comunque anche altre persone, non tutti hanno un blog o non ce l'hanno più magari. Oltre a pubblicarli su un sito, su un blog, cercheremo anche in futuro, appunto al momento o della pubblicazione che sicuramente avverrà, o comunque anche della presentazione, di trovare un modo per interagire ancora più e meglio con la comunità di persone che poi alla fine è la creatrice di questo volume secondo. Sono arrivati per ora adesso altri 27 contributi. Chiunque voglia partecipare con un proprio racconto a questo progetto o leggere le riscritture di Pinocchio può farlo sul blog www.strelnik.it/pinocchio. Strelnik con K finale, Pinocchio con doppia K. Ma la blogosfera, termine con cui si definisce l'universo dei blog, non è solo condivisione di passioni ed esperienze personali. Da diari online, i blog sono diventati oggi anche fonte di informazione, luoghi virtuali di dibattito e di scambio di opinione. Sul computer via internet io tengo una specie di sito, cioè una finestra, un diario, il mio diario, con una variante straordinaria. Io tutti i giorni scrivo una cosa e chiunque mi può rispondere e mi può dire qualsiasi cosa. Democrazia aperta, non censuro nessuno. Io ho aperto questo blog, è visitato da 200.000 persone al giorno. Il blog di Beppe Grillo nasce nel 2005 ed ottiene un riscontro sorprendente. Il comico genovese usa il suo sito per lanciare campagne di controinformazione e sensibilizzare l'opinione pubblica su temi di attualità. In pochissimo tempo diventa il blog più frequentato in Europa. Dietro il successo di beppegrillo.it c'è la Casaleggio Associati, società di consulenza per il web che ha creduto nel successo dei blog come fonti di informazione alternative. Il blog oggi è informazione, è un modo di fare informazione però che è completamente diverso da quello che abbiamo percepito e percepiamo fino ad oggi, nel senso che il blog è in realtà una forma di informazione costruita dal basso e insieme alle persone, non è un'informazione monodirezionale come potrebbe essere quella dei canali di informazione tradizionale, è una forma di informazione che viene dal basso, è una forma di, chiamiamola così, democrazia diretta e comunque sia di informazione trasparente. Infatti quello che si scrive sul blog il giorno dopo, un minuto dopo viene smentito se non è vero, comunque viene integrato anche da altre informazioni. Luca Eleuteri, socio della Casaleggio e Associati, parla dei blog di informazione come di una realtà ormai consolidata. Il fenomeno è in crescita, ma pone il problema dell'attendibilità di chi scrive. I blogger possono trasformarsi in giornalisti, ma senza il controllo di un editore o di una redazione. Il blog alla fine finiscono per essere un po' tutti attendibili, quelli di successo, perché le persone in rete sono molto più documentate, molto istruite, per cui è difficile mentire, no? In internet questa informazione comparata esiste ed è costante, continua e a portata di mano di tutti, per cui diciamo la trasparenza quando si decide di avere un blog è un requisito fondamentale. I blog di informazione sono letti e visitati da un pubblico molto vasto e per questo entrano in competizione con i media tradizionali. Il futuro sicuramente non è la carta stampata, quello che sta succedendo oggi c'è una certa resistenza perché ovviamente questi canali di informazione tradizionali sono ancora molto forti a livello di lobby, per cui oppongono una certa resistenza che a volte è anche ostacolare nello sviluppo della rete. Il blog, anche se non sarà il blog, sarà qualcos'altro, comunque sono destinati ad assorbire ogni canale di informazione. La competizione innescata dai nuovi mezzi di informazione ha determinato un adattamento e uno spostamento dei media tradizionali verso il web. In cima alla classifica mondiale dei siti più visitati troviamo infatti grandi gruppi editoriali come il New York Times o la CNN. A seguire i blog di informazione che offrono una varietà di contenuti e rapidi aggiornamenti. Prevedere oggi un futuro avvicendamento di questa graduatoria non sembra più un azzardo. Oltre che diari personali e spazi dedicati all'attualità, esistono ormai blog di ogni genere, da quelli tematici, dedicati ad esempio alla musica, a quelli politici, fino ai foto e video blog. Che siano di informazione, personali o di divertimento, i blog continuano a crescere. A fine 2007 hanno toccato quota 100 milioni. Cosa aspettate ad aprire il vostro?